Ad alta voce, edizione 20 anni. Galatea Ranzi legge Panorama di Tommaso Pincio. Ottavio Tondi si appostò per 2 settimane intere, dal mattino presto alla sera inoltrata. Ogni tanto vedeva entrare uomini che non gli sembravano inquilini del palazzo, uomini che non aveva mai visto e verso i quali provò un odio profondo, pensava fossero nuovi clienti di lei. Il 15° giorno, poco dopo il tramonto, vide uscire il direttore editoriale. Il direttore editoriale si era quasi dimenticato di lui. Era in compagnia di una donna. Non aveva mai visto neanche lei. Era sui 35, non particolarmente bella, ma nemmeno brutta, forse soltanto un po' sovrappeso. Sembrava molto sicura di sé, malgrado ci fosse un che disgraziato e goffo nei suoi movimenti. Suscitò in Tondi un'antipatia immediata. Cercò di osservarla meglio e giunse alla conclusione che si trattava certamente di lei, della sua nemesi. Loretta Buia. Era una certezza del tutto infondata, giacché non aveva la minima idea di che aspetto avesse, non l'aveva mai vista prima, né di persona né in foto. Gli parve tuttavia l'ipotesi più credibile, anzi l'unica. Chi mai avrebbe potuto essere se non lei? Quale prova migliore dell'evidente intesa che c'era in quella coppia? Nelle settimane trascorse in ospedale l'aveva pensato spesso. Erano fatti l'uno per l'altra. Vedrai se non si mettono insieme, aveva profetizzato tra sé, e adesso eccoli là, i 2 piccioncini, i guastatori dell'esistenza sua. Ravviò il motore e li seguì, tenendosi a distanza. E mentre procedeva a passo d'uomo e li studiava con odio, acquistò forma una tentazione terribile. Più ci pensava, più gli sembrava una soluzione equa, cruenta e spietata, certo, criminale anche, ma equa. Equa come può esserlo una legge prossima alla natura, mors tua vita mea. Mesi di sofferenza e un'assenza di futuro l'accecavano. Era pronto. Non appena avessero osato attraversare, lui avrebbe fatto quel che c'era da fare. Si sentiva determinato, sostenuto da una furia selvaggia e giusta, sicché, quando loro, giunti a un incrocio, si apprestarono ad abbandonare il marciapiede, schiacciare il pedale dell'acceleratore fu per lui questione di un attimo, anche meno. Era a una decina di metri dal bersaglio, in cima a un viale in discesa. Calcolò che nel paio di secondi che gli erano necessari per raggiungere le strisce pedonali, la coppia si sarebbe trovata esattamente sulle strisce di mezzeria. Pensò al rumore dell'impatto, immaginandoselo non così forte, comunque meno di quel che ci si potrebbe aspettare. Qualcosa di sordo e breve, ma proprio per questo più pauroso. Si domandò cosa sarebbe accaduto ai corpi, se li avrebbe visti balzare sopra il parabrezza o finire scaraventati a metri di distanza oppure inghiottiti dalle ruote. Si raffigurò molte cose in quel paio di secondi, tranne lo stridio che gli perforò le orecchie quando frenò. Vide la coppia sfilare davanti alla sua utilitaria. Lei pareva non essersi accorta di nulla, camminava tranquilla guardando in un'altra direzione. Il direttore editoriale invece si era voltato e lo fissava negli occhi, senza tuttavia fermarsi. Seguitò a camminare con la Buia al suo fianco, girando lentamente il capo, il tanto che serviva a tenere lo sguardo inchiodato su Tondi, che fece altrettanto. Dopo averli superati, Tondi aggiustò lo specchietto retrovisore per controllare se il direttore editoriale lo stesse ancora guardando, ma un autobus gli impallò la vista e quando si tolse di mezzo la coppia era ormai sparita. Tondi passò alcune notti insonni a guardare il film proiettato sul soffitto della sua camera, quello del mancato investimento, naturalmente. Non poteva togliersi dalla mente la faccia del direttore editoriale mentre attraversava la strada e lo fissava. Un'espressione di pietra, indecifrabile. Non sembrava la faccia di una persona che sta per essere uccisa. Non sembrava nemmeno la faccia di qualcuno che ha appena riconosciuto il suo assassino. Ma se non si era reso conto del pericolo che aveva corso, se non l'aveva riconosciuto, perché l'aveva fissato a quel modo? Le domande che più lo atterrivano riguardavano tuttavia a se stesso. Qualcosa lo aveva salvato, imponendogli di frenare. Qualcosa di estraneo, che forse era dentro di lui. Fosse dipeso da Tondi soltanto, avrebbe tirato dritto accelerando. Come aveva potuto spingersi a tanto? Cos'era diventato? Non tornò più nelle vicinanze di quel palazzo, né lasciò più la città senza una meta, col rischio di finire in un altro posto come l'idroscalo. Riprese a vagare con la sua utilitaria e trovò un'altra soluzione per scampare il tedio di imbottigliamenti e semafori. Il raccordo. Non che il grande raccordo anulare fosse del tutto immune dal problema, ma evitando le ore di punta e con un orecchio agli aggiornamenti sulla viabilità, era possibile godersi appieno la scorrevolezza di quella infrastruttura enigmatica, doppione d'asfalto dell'antica cinta muraria. Tondi ne era incantato. Come ogni romano, sapeva da sempre della sua esistenza e delle sue assurdità, ma soltanto ora, passando dallo stato di pedone a quello di automobilista, giungeva a penetrarne i misteri. Ai tempi del suo concepimento, nel dopoguerra quasi immediato, il raccordo era parso una dissennatezza, una megalomania avulsa da qualunque esigenza reale. Si doveva ricostruire il paese, la gente faticava a vivere, il traffico poi era irrilevante e sebbene si parlasse di autostrada del sole, nessuno capiva a chi mai avrebbe giovato un anello situato in pieno agro romano, lontano persino dalle periferie di allora, in terre non edificate e solo da poco bonificate, terre che nelle mappe di un tempo non avrebbero conosciuto altra forma di rappresentazione se non il bianco della carta ai margini di un foglio. Come un'opera d'arte insensata. Così era nato il raccordo. Un progetto tanto visionario difficilmente avrebbe trovato ascolto, non fosse parso musica alle lungimiranti orecchie di avidi palazzinari, clienti ideali della schiatta dei tondi commercialisti. E tuttavia il tondi lettore vi scorgeva soltanto la grande bellezza, il lato folle, l'essere un'enorme scultura da installare nel nulla, e proprio perché pensata per luoghi che all'epoca erano il nulla e senza nulla da abbattere, aggirare o scavalcare, era possibile pensarla come un cerchio pressoché perfetto, col centro fissato nel miliario aureo, nei pressi del foro romano. Che ci fosse qualcosa di malsano nel grande raccordo anulare, di perversamente artistico, lo confermava il fatto che portasse il nome del suo concepitore, l'ingegner Gra. Negli anni in cui Ottavio Tondi vi girò senza soluzione di continuità, il raccordo era diventato un'infrastruttura imprescindibile. 100 e più migliaia di veicoli lo percorrevano ogni giorno. Non era più un segno impresso nel bianco in una landa disabitata. Questo aspetto restava però marginale per il nostro depresso antieroe, assai più interessato a coglierne il valore simbolico. E il valore simbolico del raccordo consisteva per lui nel fatto di rappresentare un limite. Cosa limitasse con esattezza il raccordo, Tondi non avrebbe saputo spiegarlo. Non era però un limite riguardante lo spazio, bensì un confine dell'immaginazione, un limite psichico, il monumento al limite ignoto. Così lo chiamava Tondi. Sebbene non ignorasse che per gli altri romani, per gli automobilisti con una meta e una vita attiva, il raccordo era una specie di bussola magica. Prendere il raccordo per i romani voleva dire trovare la strada, arrivare là dove si voleva arrivare. Era la versione Quirite del mito di Arianna. Una leggenda metropolitana di allora raccontava di un pullman con una squadra di calcio a bordo che girava da anni sul raccordo senza trovare l'uscita. Tondi era come quel pullman, anche se per lui non trovare l'uscita, il girare in tondo, non costituivano affatto una maledizione, ma una cura dell'anima, un modo per tornare a sentirsi parte di qualcosa, di un abbraccio. Soltanto un romano può comprendere una simile stranezza, il bisogno di sentirsi racchiusi in una rotondità. Il cerchio cingente è difatti un'ossessione che l'urbe coltiva da tempo immemore, con perseveranza millenaria. Le mura, il Colosseo, il foro del Pantheon, il colonnato di San Pietro, il sacco del 1527 non sono che prefigurazioni del raccordo e degli altri limiti ignoti che a esso faranno seguito. Fu così che Tondi impiegò una cospicua parte del suo quinto decennio di esistenza in vita sul raccordo. Le tante ore trascorse nella sua utilitaria hanno lasciato tracce di sé nella corrispondenza con Ligeia Tissot. Sono molti i messaggi in cui si sofferma sui pensieri che faceva al volante mentre vedeva scorrere i cartelli degli svincoli. Svincoli che avevano nomi come Labaro, Casteljubileo, Bufalotta, Magliana. Sapeva tutto quello che c'era da sapere su quegli svincoli, quali erano quelli numerati e da quali corsie erano accessibili. E non erano poche le volte in cui il racconto dei suoi pensieri si fondeva con le storie degli svincoli. Per quanto i pensieri che rievocò nei messaggi a Ligeia non erano veri e propri pensieri, ma ricordi. Ricordi di libri. L'orbitare attorno alla città aveva infatti il potere di riportargli alla mente pagine lette in gioventù, quando era ancora un lettore. A volerla dire come la raccontava lui, non si trattava neppure di ricordi, ma di apparizioni. Pagine sfogliate molti anni addietro si riaprivano sotto i suoi occhi, nitide come una foto appena scattata. Il primo libro a materializzarsi fu naturalmente Crash di Ballard. Dopodiché venne Solaris di Lem e poi tutti gli altri. Girare sul raccordo divenne così un modo per tornare a leggere. I piaceri provati un tempo gli venivano ora restituiti in forma diversa. Le pagine, non più stampate su carta, erano adesso entità fluttuanti, fantasmi di parole sospesi sullo sfondo del parabrezza, dell'asfalto, della segnaletica stradale. Tornato a casa dopo cena, si sedeva e appuntava su un quaderno le frasi che gli erano riapparse sul raccordo. Il loro numero era talmente elevato che la notte non gli bastava. Prendeva sonno sul divano non molto prima dell'alba. Ed è da qui che viene il nome di questi appunti, memorie di cose lette prima di dire m'addormento. Perché le memorie fossero appuntate senza mai citare né la fonte né l'autore e senza un criterio evidente, a parte la numerazione progressiva, è invece un mistero che nei messaggi a Ligeia Tissot non viene chiarito. Altra questione non di poco conto, omessa dalla corrispondenza ma rivelata da Mario Esquilino, è quella delle ragazze dell'Eur. Dopo qualche tempo Tondi alternò le corse sul raccordo a escursioni nelle strade dell'Eur. L'idea gli venne al chilometro 48. Lo svincolo dell'Ardeatina fece riaffiorare le pagine di un libro non particolarmente noto, ma che Tondi aveva apprezzato, Le ragazze dell'Eur di Paolo Del Colle. È a questo libro che fa riferimento l'appunto numero 628, che recita testualmente: «Ho letto che il drenaggio a sud-ovest di Roma è un drenaggio infetto, perché oggi, più che mai, è il quartiere delle prostitute». È facile immaginare con quali sentimenti lo esplorasse. L'Eur era molto amato da Federico Fellini per ragioni nelle quali anche Tondi si riconosceva o delle quali aveva bisogno. Si riconosceva, per esempio, nella dimensione di metafisica solitudine tipica di molte sue strade, nella spettralità marmorea di certi edifici che non sembravano costruiti per gli umani, bensì per dare dimora alle statue. Si sentiva a suo agio guidando tra architetture come il Palazzo della Civiltà, il Colosseo Quadrato, il Fungo, la cui improbabilità era in fondo gemella dello spirito che aveva generato il raccordo. Aveva bisogno di tutto quel bianco, perché il bianco del travertino gli evocava il bianco della carta, come aveva bisogno della geometrica semplicità degli edifici. Ogni cosa gli sembrava innocua all'Eur. Era come addentrarsi in un futuro consegnato alla nostalgia. un avvenire che sapeva di vecchi romanzi di fantascienza e copertine di Urania. Certo, vi si respirava anche la malinconia opprimente di Circhi e Luna Park, ma non era possibile avere tutto. Qualcosa bisognava pur concedere. Un poco di tristezza per un ignoto addomesticato era un prezzo ragionevole. Anche le prostitute avevano prezzi ragionevoli. Non andava all'Eur per comprare sesso, ma l'idea che fossero alla sua portata era un'altra cosa che lo confortava. Finora aveva potuto tirare avanti coi risparmi di quando leggeva soltanto perché conduceva un'esistenza spartana. La sua principale voce di spesa era rappresentata dai costi dell'utilitaria: assicurazione, bollo, benzina, ricambi, riparazioni. Galatea Ranzi ha letto Panorama di Tommaso Pincio, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.